Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, nuova puntata, bella giornata per tutti, un po' meno per qualche sventurato turista che quest'anno ha scelto il tour operator sbagliato. Allora, due casi piuttosto eclatanti stanno animando in questi giorni il dibattito intorno alle vacanze 2009, anno che rischia già di passare alla storia come l'anno nero dei mercati, dell'economia, quindi anche del turismo. Due situazioni differenti che però stanno avendo le stesse conseguenze, stanno lasciando a casa origini. Rischiano di lasciare a casa decine di famiglie, forse qualche migliaio, pronte a partire per le vacanze, invece difficilmente riusciranno a farlo a meno che non tirino fuori altro denaro per non compromettere del tutto il desiderato e meritato periodo di riposo. Allora, quali sono le vicende di cui parliamo? Da una parte, una di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, ma oggi dovremmo fare un punto della situazione un po' più dettagliato, la revoca della licenza da parte dell'ENAC alla compagnia aerea MyAir. Tanti passeggeri rimasti con un biglietto aereo in mano che serve a poco più di niente. E poi la vicenda di Todomondo, il tour operator, il cui fallimento è ormai una realtà. Sono oltre in questo caso 5.000 i turisti coinvolti, i clienti del tour operator, le cui vacanze sono praticamente letteralmente sfumate. E però qua c'è una questione: il gruppo ha continuato a raccogliere adesioni e prenotazioni fino a pochi giorni fa, adesso non si capisce che titoli di viaggio abbiano in mano i clienti che hanno prenotato attraverso il sito di questo tour operator che vendeva vacanze a prezzi letteralmente stracciati, insomma occasioni imperdibili che in realtà hanno fatto perdere completamente la vacanza a molti. Un tour operator che naviga in cattive acque da molto tempo e quindi i segnali sibillini si erano già visti da mesi. Ho ritrovato addirittura stamattina su internet una puntata di Mimanda Rai 3 che raccontava proprio di disavventure di turisti che avevano scelto questo tour operator per viaggiare, insomma una situazione che qualcuno già conosceva, ma proprio per i bassi prezzi praticati sulle vacanze e destinazioni appunto che era possibile prenotare attraverso questo sito, era ovviamente uno specchietto, non dico tanto per l'elodro, ma insomma delle occasioni imperdibili che molti turisti hanno scelto, e qualcuno anche, come dire, scelto deliberatamente magari di rischiare qualcosa pur sapendo che non era del tutto affidabile questa compagnia. In ogni caso, questo non significa che si possano tranquillamente truffare le persone, e raccogliere quindi prenotazioni quando non si è in grado di poter rispettare gli impegni presi con i turisti, con i vacanzieri. Pertanto stamattina faremo un punto anche su questo, ma c'è un altro versante che oggi ci interessa analizzare. Un'altra questione è quella della partenza con tutte le tutele assicurative che fanno al caso nostro a seconda della destinazione che si sceglie. Per esempio partire assicurati contro malattie, contro problemi sanitari. I timori per la suina stanno preoccupando molti turisti che hanno magari già nei mesi scorsi individuato e prenotato una vacanza in località che oggi sono diventate a rischio per il contagio. Allora, ci dobbiamo assicurare? Cosa dobbiamo chiedere alla nostra compagnia di assicurazione? Quindi partiamo tranquilli da questo punto di vista, anche se per esempio abbiamo scelto, non so, Londra, dove il contagio è abbastanza insistente in questo momento. E però insomma noi vogliamo andare a studiare la lingua là, che cosa facciamo? Partiamo assicurati? Cosa chiediamo alla nostra compagnia? Insomma, sono tanti i temi di cui vogliamo parlare quest'oggi con l'avvocato Carmelo Calì, responsabile del settore appunto turistico della Confconsumatori, rappresentante del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti nel Comitato Tutela Diritti del Passeggero presso l'ENA, che insomma, avvocato Calì, lei fa un sacco di cose e conosce tutto il mondo che è legato al turismo, ai trasporti soprattutto. Avvocato Calì, buongiorno. Buongiorno a voi. E bentornato soprattutto a Salva Danaio, e benvenuta anche a Chiara Giglio, Group Product Manager di Europa Assistance, una grande compagnia di assicurazione appunto che conosce bene quali sono le tutele che un viaggiatore deve prendersi prima di partire. Giglio, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno. E grazie di essere intervenuta a Salva Danaio. Naturalmente ci piacerebbe ascoltare anche soprattutto le vostre domande sui temi di questa mattina. Raccontateci se siete incappati nella disavventura con MyAir o con Todomondo, cercheremo di capire cosa è possibile fare. Soprattutto raccontateci se avete intenzione di costruirvi magari una protezione assicurativa per tutelare al meglio il vostro viaggio, di cosa avete bisogno. Stamattina dottoressa Gigli appunto ci spiegherà come è bene muoversi anche in questo campo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire, per chiacchierare con noi in diretta. ci potete scrivere al 349-238-6666 se invece non vi convince la modalità dell'intervento in diretta, appunto, e volete inviarci dei messaggi. La borsa, come abbiamo detto in apertura stamattina, era positiva in avvio, poi si è un po' indebolita la situazione nel vecchio continente. Abbiamo dei cali frazionari a Parigi, Francoforte e Londra, -0,05, -0,09, -0,10% per queste tre grandi piazze del vecchio continente. È un po' più consistente invece il calo di Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,63% in questo momento. Stanno perdendo terreno i titoli bancari, alcuni dei quali erano cresciuti parecchio nelle ultime settimane. Unicredit in particolar modo aveva riconquistato i 2 euro che oggi perde, il titolo perde il 2%, il Banco Popolare il 2,14, Pirelli -1,65, Snam -1,44, Terna -1,43. Abbiamo un ribasso di un punto abbondante su Saipem, su CIR, su Tenaris, sulla Popolare di Milano, su Prismian e Eni che perde lo 0,8%. Rimangono invece positive le contrattazioni su Luxottica +2,31, su Mondadori +1,66, su Ansaldo che è in rialzo di un punto, Geox +0,8, Generali +0,7, Fiat +0,6%. Petrolio stabile a $68 al barile. L'euro sul dollaro quota 1,42,71. Abbiamo un'offerta pubblica di acquisto da parte di Benefit su Mirato, scopo dell'operazione il delisting del titolo, e abbiamo Risanamento che, riammessa alle contrattazioni, non riesce a fare prezzo. Questa è la società oggetto dell'indagine della Procura di Milano e del gruppo dell'immobiliarista milanese, appunto, Zunino. Da ieri nuovo riassetto societario emerso dal consiglio di amministrazione, ma per la società in borsa è ancora alta tensione. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, ritorniamo sulle vacanze e sui problemi che si sono aperti in questi giorni per molte decine di famiglie che hanno prenotato il volo aereo con Myer o una vacanza, un pacchetto completo con Todomondo. Sentiamo un po' a quali problemi stanno andando incontro. Nonostante la crisi, i portafogli più leggeri e l'allarme per l'influenza suina, la maggior parte degli italiani ha deciso di non rinunciare alle tanto attese vacanze. Se state dunque per partire, non dimenticatevi di mettere in valigia una polizza assicurativa. Basta infatti un piccolo infortunio, magari in un paese di cui non si conosce la lingua, e il soggiorno tanto atteso è compromesso. E allora perché non attrezzarsi per far fronte a qualsiasi imprevisto ed evitare magari un rientro anticipato? Stipulare una polizza di assicurazione viaggi, soprattutto se ci si reca all'estero, serve ad esempio a coprirsi e tutelarsi in caso di improvvisa malattia o di un infortunio. È consigliabile quindi alle persone che si recano in posti dove una prestazione medica raggiunge per noi costi impensabili come gli Stati Uniti. Ma allo stesso tempo serve anche per tutelarsi in caso di tutti quei disguidi che possono verificarsi con i mezzi di trasporto e lo smarrimento dei bagagli. Sono quindi molte le garanzie che può ottenere chi ha stipulato un'assicurazione viaggio, spesso offerta contestualmente all'acquisto del pacchetto vacanze. Il costo di queste polizze può aumentare o diminuire a seconda di alcune variabili, per esempio in base alla destinazione del viaggio, in quanto le compagnie di assicurazione considerano alcune destinazioni più pericolose di altre e calcolano il premio da pagare di conseguenza. Tendenzialmente il costo varia dai 70 ai 380 euro circa, per un massimale che arriva fino a 155.000 euro. L'offerta dunque non manca. Ma cosa accade se invece è proprio chi ci ha offerto il pacchetto vacanze a chiudere i battenti? Sembra essere questa infatti la sorte di migliaia di italiani che nei mesi scorsi avevano prenotato le proprie vacanze con la compagnia aerea MyAir o con il tour operator Todomondo, che si sono trovati a dover acquistare nuovi biglietti aerei presso altre compagnie aeree o addirittura, in alcuni casi, hanno dovuto rinunciare alle tanto attese vacanze. Avvocato Calì, io comincio subito con lei. Non c'è un'estate in cui si possa stare tranquilli. È chiaro che poi quando i flussi turistici si intensificano così tanto come in questo periodo, le disavventure sono un po' più fisiologicamente attese. Però certo che la questione di Myer e quella di Todomondo sono molto diverse, però non sono esattamente da considerare come delle circostanze fisiologiche, nonostante i flussi turistici appunto siano notevolmente aumentati, anche se quest'anno il turismo soffre un po' come tutte le altre, come tutti gli altri comparti economici. Da che cosa vuole partire? Qual è il caso più problematico per le associazioni dei consumatori in queste ore? Forse Todomondo, avvocato Calì? Infatti stavo dicendo proprio questo. Ma diciamo Diciamo che questa faccenda evidenzia innanzitutto come spesso nella vendita di questi pacchetti turistici vi sia una certa leggerezza, a mio avviso, innanzitutto da parte delle agenzie di viaggio, perché è vero che molti turisti hanno acquistato direttamente andando su internet, quindi si tratta di acquisti online, ma altri hanno acquistato magari tramite un'agenzia alla quale si erano rivolti. A mio avviso, da questo punto di vista, si può ipotizzare una responsabilità di chi ha venduto il pacchetto turistico del tour operator Totomondo, perché come operatore professionale del settore doveva essere, aveva il dovere di essere a conoscenza che questo tour operator in qualche modo già da tempo era in una situazione economica quantomeno discutibile, o comunque tale da destare preoccupazioni. No, devo dire peraltro, avvocato Carimi, scusi se la interrompo, io puntualmente sono 5 anni che faccio questa trasmissione Salvadanaio, e ogni anno in questo periodo ci occupiamo a vario titolo, no, della questione vacanze, come tutelarci, che tour operator scegliere, e se spendiamo molto poco aspettiamoci anche qualche disservizio. Devo dire che è chiaro che poi col senno di poi è molto facile dare dei giudizi e ricordare quello che è stato detto in passato, però c'è sempre stato un caso Todomondo nelle nostre puntate e qualcuno si è sempre lamentato che poi la qualità dei servizi magari degli alberghi di cui Todomondo veicolava l'offerta, oppure dei voli prescelti, insomma in qualche maniera qualche problema c'è sempre stato. È anche vero che questa compagnia, questo tour operator, è riuscita a veicolare sempre offerte molto vantaggiose dal punto di vista economico. Questo già è un piccolo campanello d'allarme di cui dovremmo tenere nella giusta considerazione, oppure un giudizio troppo affrettato, avvocato Cali, che ne pensa? No, io lo condivido. Spesso il consumatore deve fare attenzione, spesso purtroppo si fida magari di chi lo rassicura, oppure da quelle che possono essere allettanti offerte che trova su internet, però appunto deve tenere conto su questo, deve servire anche soprattutto come esperienza per il futuro di fare la massima attenzione prima di acquistare, verificare appunto ormai con gli strumenti di informazione, soprattutto appunto su internet si può verificare se vi sono notizie rispetto a un tour operator di servizi e varie questioni che possono intervenire. Certamente, però rispetto a questa cosa vorrei aggiungere che fino ad oggi nessuno ha sollevato, o meglio ha proposto ai consumatori una possibilità che bisognerebbe verificare presto, noi l'abbiamo fatto proprio con una lettera e quindi attendiamo una risposta, perché in base al codice del consumo l'organizzatore, quindi il tour operator Totomondo e anche il venditore del pacchetto turistico devono obbligatoriamente essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore in caso di risarcimento danni, come può essere un'ipotesi di questo tipo, quale può essere quella determinata o dall'annullamento del viaggio o prima della partenza, o dall'annullamento del viaggio durante la settimana di vacanza o i giorni di vacanza. Ecco, allora, perché da questo punto di vista, se questo tour operator, per come gli imponeva la legge, ha stipulato un contratto di assicurazione, è chiaro che a questo punto i cittadini, i consumatori che hanno acquistato i pacchetti turistici hanno la possibilità di essere indennizzati da quella che è la compagnia assicurativa. Allora, magari poi daremo anche un vademecum, io l'ho letto anche su siti di altre associazioni dei consumatori che stanno dando tutte le indicazioni del caso per capire come potersi tutelare al massimo in questa situazione, avendo già perso il viaggio, quantomeno tentare di recuperare qualcosa dei soldi già versati come anticipo o a volte anche completamente a saldo della vacanza. L'ADUC, per esempio, indica di inviare subito una raccomandata con ricevuta di ritorno di messa in mora della società, chiedendo il rimborso di quanto pagato e un congruo risarcimento del danno a seguito appunto della decisione di interrompere le attività e fare istanza di fallimento, che è quanto ha comunicato l'assemblea dei soci di questa azienda il 25 luglio. E poi bisognerà vedere quando e come, se ci sarà un tribunale che definirà il fallimento di questa società, ci si potrà iscrivere al passivo presso il tribunale dove ha luogo il procedimento fallimentare, ma questa è una cosa appunto che avverrà in un secondo momento. Peraltro l'ADUC indica anche un'altra cosa, di fare domanda di rimborso al Fondo Nazionale di Garanzia per il Consumatore di Pacchetto Turistico, che è un fondo del quale io non conoscevo neanche l'esistenza, l'ho scoperto in questa circostanza, appunto documentandoci su questa cosa, e magari vedremo anche come si fa a fare una domanda attraverso questo fondo. Avvocato Cali, c'è anche il caso Mayer, c'è una domanda di un'ascoltatrice, io però vorrei salutare anche perché altrimenti penserà che l'abbiamo invitata solamente per ascoltarci, ancora Chiara Giglio di Europe Assistance, perché ci sono molti ascoltatori che sono pronti a partire per le proprie vacanze e visto che la suina ha contagiato un po' tutto il mondo, Giglio, io immagino che questo sia in questo momento, come dire, il punto di interesse maggiore anche per i vostri assistiti. Vi stanno facendo molte domande su come tutelarsi al meglio. Anche al nostro call center, servizio clienti, arrivano molte domande su cosa fare, se le polizze sono ancora valide, se non sono valide in caso di influenza suina, per cui anche a noi arrivano parecchie richieste, le persone cercano informazioni in vario modo, diciamo, e per quanto riguarda però le coperture assicurative, quella che noi forniamo è una copertura di assistenza sanitaria, comunque quelle che vengono fornite sul mercato, all'interno del quale nel nostro caso per esempio una persona che si ammala in viaggio è assolutamente coperta, perché rientra tra le malattie coperte dalla copertura assicurativa. Però l'assicurazione, mi raccontava lei prima a microfoni spenti, non copre per esempio il ritorno, il trasporto per quello no, che riguarda le copre, ma deve seguire quelle che sono le regole sanitarie, nel senso che se c'è un periodo di quarantena prescritto a livello appunto di regole sanitarie, quindi la persona non può essere riportata in Italia perché deve comunque stare sotto quarantena e quindi noi dobbiamo comunque rispettare queste regole, però il cliente è assolutamente assistito e diciamo monitorato dalla nostra centrale operativa, dalla nostra equipe di medici. Certo, non è bene precisarlo, perché magari non è che il fatto che uno vada in una località ad alto rischio e si faccia tutta la copertura assicurativa, magari la paga anche fior di quattrini, ma non è che per questo una volta là, se si contagia, deve pretendere ritorno immediato perché ha la copertura nel paese di origine, ma in realtà devono essere rispettate appunto tutte le regole di sicurezza sanitaria, come ci diceva la dottoressa Giglio, del paese in cui ci si trova. Mi pare che questa è la regola che ci ha dato. Ecco, il rientro sanitario poi tra l'altro per definizione è un rientro che viene dato a una persona che ha bisogno di tornare a casa per cure urgenti e quant'altro, insomma, nel senso che la condizione clinica del paziente richiede poi il rientro, quindi questa, noi stiamo parlando poi, stiamo parlando di influenza, sì. Quindi non è detto che poi la persona abbia bisogno di un rientro sanitario, magari ha bisogno semplicemente di un rientro in aereo, ma non è detto che sia assistito da personale medico, come può succedere a persone che vanno incontro a eventi ben più gravi. Però ecco, la persona che si ammala in viaggio non è coperta. Naturalmente prima di quando viene stipulata una polizza, il suggerimento che poi è un po' per tutto è di leggere bene le condizioni di polizza, che potrebbero esserci delle assicurazioni che escludono la pandemia. Quindi è importante che la persona che stipula la polizza legga le condizioni, che sono un po' noiose, però effettivamente danno l'idea alla persona di quelle che sono i suoi diritti. Quindi alcune compagnie assicurative escludono le pandemie. E quindi e voi per esempio? No, noi no, nelle nostre polizze vengono coperte, anche perché ripeto è appunto un'influenza che viene gestita come tale, un po' più dirompente nella capacità di contagiare, di è propagarsi, molto contagiosa, esatto. È molto contagiosa, quindi c'è anche un discorso di tutela del personale medico a volte, no? Nel nostro caso dell'equipe medica che si muove per assistere queste persone, per cui sì è molto contagiosa, però nelle nostre polizze è coperta. Le faccio sentire che cosa ci chiede Marco dalla provincia di Milano, che mi pare di capire, non so, sta partendo per gli Stati Uniti Marco, oppure ha una domanda attinente a questa zona, ci dica. Buongiorno, intanto e benvenuto. Buongiorno a lei. No, esatto, io devo partire dagli Stati Uniti e come da bravo diligente ascoltatore Salvadanaio mi sono letto tutte quante le condizioni delle varie assicurazioni e quella della sua ospite, ahimè, l'ho scartata perché per gli Stati Uniti ha un limite di spesa. Sapendo che andare agli Stati Uniti è comunque molto costoso, ne ho trovato un'altra, una concorrente, l'unica che ha trovato, che per gli Stati Uniti è appunto un limite di spesa illimitato. Cosa vuol dire il limite di spesa, Marco? Mi scusi, non riesco a capire questa condizione. Per il caso di copertura sanitaria, dato che hanno dei massimali per tutte le assicurazioni, Europe Assistance dà, se non mi sbaglio, 15.000 euro per gli Stati Uniti, mentre c'è una sua concorrente che dà come limite di spesa illimitato, nel senso che ovviamente solo per quel tipo di assistenza. E andando appunto negli Stati Uniti e sapendo come funziona il sistema sanitario statunitense, ho appunto ovviato per queste altre. Appunto, la domanda è appunto questo, cioè io ho tante possibilità, io faccio anche la persona diligente, vado anche a cercarmi l'assicurazione, però come ha appena detto la sua ospite, l'importante è leggere bene le condizioni, che uno pensa di essere coperto, in realtà si trova Infatti, poi magari, come dire, assolva questa pratica come se fosse proprio una, poco più che una formalità, e invece magari poi ci ritroviamo nella necessità di doverci di dover utilizzare questo servizio che paghiamo, e magari poi le condizioni non sono quelle che immaginiamo. Marco, un'ultima cosa, ci faccia sognare e ci racconti dove va. Da Houston fino a Las Vegas. Molto bene, insomma, buon viaggio, sta via molto? Sono 2 settimane, fatto in macchina, appunto per questo, fatto da me, prenotato, certo, via internet, da solo, quindi sapevo di andare a cercarmi un'assicurazione, perché non avevo quella inclusa in bundle ai vari pacchetti turistici, però ho trovato veramente tante assicurazioni, tutte quante promettevano di coprire. Poi in realtà gli Stati Uniti erano un caso a parte, gli Stati Uniti le condizioni venivano messe a parte, e con limiti di spese a volte, conoscendo la realtà statunitense. Insomma, lei si è voluto tutelare al meglio, soprattutto da questo punto di vista. Marco, la ringrazio molto per la sua testimonianza. Giro a Chiara Giglio, Europa Assistanza, questa osservazione dell'ascoltatore. E, ecco, l'importante è capire bene, anche nel momento in cui si sceglie di tutelarsi dal punto di vista assicurativo su queste problematiche, esattamente quanta copertura anche si vuole, no? Lui la voleva illimitata e come tale ha cercato una tutela di questo tipo. Giglio? Sì, corretto, diciamo che il panorama delle offerte che c'è al momento, ci sono delle compagnie assicurative che hanno un rimborso illimitato e delle compagnie assicurative che offrono un massimale. Ma i premi saranno anche diversi, mediche. Immagino I però. I premi sono diversi, e l'unica cosa che mi permetto, scusi, di correggere, sì, certo, il signor Marco, è che noi comunque abbiamo un massimale di 250.000 euro. Partiamo dai 10 e arriviamo ai 250.000, quindi abbiamo un panorama. Forse il massimale, di il massimale per quel tipo di viaggio è possibile che fosse più contenuto? No, perché noi non facciamo distinzione di paese, nel senso che la polizza che cita il signor Marco effettivamente è una polizza unica per Stati Uniti e Canada. Noi abbiamo una distinzione mondo all'interno del quale rientrano gli Stati Uniti e Canada, all'interno del quale il cliente può scegliere dai 10.000, che non sono sconsigliati per una destinazione come Stati Uniti e Canada, fino ai 250.000 a persona, che sono senza franchigie, senza quindi comunque con la possibilità di avere un pagamento diretto se uno sceglie determinate cliniche. Quindi diciamo che ecco, poi nella lettura delle condizioni di polizza è importante andare a vedere tutti questi elementi, esattamente come ha fatto il signor Marco. Benissimo. Andare a vedere. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Vorrei sentire la domanda di Maria da Udine, alla quale rispondiamo con l'avvocato Carini nella seconda parte di Salva Danaio. Maria. Buongiorno Maria. Biglietto aereo con Mayer. Esattamente. Ahimè, ho fatto con Mayer perché non ero al corrente di questa situazione precedente. Infatti. L'avevo anche utilizzata in precedenza e sinceramente avevamo viaggiato bene in aerei nuovi e pensavo, sì, essendo più economica, qualche disguido a livello degli orari, ma non... Ma anche se sono più economiche devono comunque rispettare, non è che possono viaggiare nei cieli come quando vogliono, comunque gli orari devono essere comunque rispettati. Magari che loro stringono, non so, nelle spese su... Vabbè, al limite in ciò che passano, certo, durante il volo, bevande e dessert vari, insomma. La sorpresa invece è che non può partire. È stata che loro effettivamente avevano una situazione alle spalle che io non ero sinceramente al corrente. Certo, senta Maria, no, per capire, perché sono le mie uniche vacanze all'anno e non avrei rischiato. Quando dovrebbe partire? Io dovrei partire il 9 agosto, quindi capire anche nei vari programmi di riprotezione che le altre compagnie hanno organizzato se è possibile trovare qualcosa di sostitutivo. Appunto, destinazione Maria? Marrakesh. Eh sì, giochiamo all'otto sperando, poi, come avete sentito anche da Simone Spezia, che la ricevitoria dove abbiamo scelto di giocare effettui effettivamente la giocata, perché sennò sono, come dire, cavoli amari se scopriamo di essere magari i vincitori della lotteria e scopriamo invece di non essere affatto titolari di questa... di questo diritto. Vabbè, questa è un'altra vicenda, magari potrebbe essere divertente anche, mica tanto, trattarla a Salva Danaio. Lasciamo invece da parte questo e parliamo di chi rimane a casa in questi giorni, perché ha prenotato una vacanza con Todomondo, perché ha prenotato un volo con Mayer ed eravamo rimasti proprio Alla domanda della nostra ascoltatrice di Udine, che deve partire il 9 agosto per Marrakesh, ha biglietti con Maier, ma a questo punto bisogna capire cosa può fare la nostra ascoltatrice, a meno che non abbia convertito i biglietti con le altre compagnie che hanno dato la loro disponibilità in questo che si chiama programma di riprotezione dei clienti. Avvocato Calì, Confconsumatori ci aiuti. Allora, teoricamente poi, come ho avuto modo anche di spiegare la settimana scorsa, riprotezione per modo di dire, perché per esempio Alitalia ha stabilito delle tariffe agevolate per i clienti di Maier che vogliono partire con la compagnia italiana, con la nostra compagnia di bandiera, vabbè, tutte le sue vicende. Però deve pagare il cliente. Certamente, il cliente deve pagare. In questo momento la situazione è questa, perché la compagnia, in seguito alla sospensione della licenza, ha comunicato che i voli sono cancellati, quindi la realtà di fronte alla quale ci troviamo in questo momento è la cancellazione dei voli. Rispetto alla cancellazione del volo, le cose sono due: o il passeggero viene contattato dalla compagnia, cosa che purtroppo mi sembra abbastanza improbabile. E allora la compagnia lo contatta e gli propone appunto la riprotezione su un volo alternativo, oppure la compagnia non lo contatta. A questo punto è chiaro che il passeggero è abbandonato a se stesso. Allora può chiedere il passeggero alla Maier, può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto e la cosiddetta compensazione pecuniaria, che è una cifra che varia da un minimo di 250 euro nel caso in cui il volo è, diciamo, all'interno dei 1500 chilometri, fino a un massimo di 600 euro. Il problema purtroppo è che, uno, il passeggero intanto deve andarsi a comprare un altro biglietto, sì, perché nessuno lo fa partire, e come diceva giustamente lei, tutte le altre compagnie è vero che hanno messo a disposizione delle tariffe agevolate, però ecco, per esempio all'Italia lo ha fatto, ma per delle destinazioni italiane, non so se per delle destinazioni internazionali sia possibile. Ma è possibile, anche se le compagnie lo stanno facendo, sì. Però il problema è che in ogni caso bisogna pagare. E l'altra cosa, cioè, quindi oltre a danno la beffa, è che se, come si pensa, si prevede, diciamo, l'esito di questa vicenda porterà a fallimento, noi non ce lo auguriamo e ci auguriamo che invece si possa risolvere, ma se dovesse portare a fallimento della compagnia aerea, è chiaro che il passeggero non potrebbe avere nessuna speranza di ottenere né il rimborso del prezzo del biglietto né la compensazione pecuniaria, perché noi già abbiamo un recentissimo precedente, che è quello proprio della vecchia Alitalia, nella quale molti passeggeri, pur avendo avuto riconoscimento dei propri diritti anche con sentenze dei giudici di pace, purtroppo non possono avere, diciamo, quello che gli spettava, perché appunto la capienza della procedura fallimentare non consentirà mai loro di avere accesso a questo rimborso. Quindi infatti la situazione è questa, no, avvocato, per fare un piccolo vademecum per Maria, sì, che magari può essere utile anche a un altro ascoltatore. Lui può sicuramente chiedere a Maier se, visto che è obbligata, lo spiega l'ENAC, a fornire adeguata riprotezione informativa ai passeggeri, che cosa intende fare per questi che aspettano di sapere qualcosa. Noi consigliamo di fare una raccomandata in ogni caso alla Maier, in ogni caso bisogna farla, poi si vede come finisce. In ogni caso, a mio avviso, bisogna fare questa raccomandata con cui si contesta appunto al mancato adempimento del contratto, quindi la cancellazione del volo, e si chiede il rimborso del prezzo del biglietto e la cosiddetta compensazione pecuniaria, per come è prevista dal regolamento comunitario, che ripeto che va da un minimo di 1500 chilometri sono 250 euro, 1500 chilometri, 3500 chilometri sono 400, oppure altrimenti superiori sono 600. Quindi, intanto fare questa raccomandata, esatto, che resta, e poi vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, quale sarà l'evoluzione. Non stavo pensando a Maria, che comunque magari avrà pagato, adesso a parte il volo, tutto il suo soggiorno a Marrakesh, quindi se non volesse perdere la sua vacanza e magari fosse disposta comunque a reinvestire nel prezzo del biglietto, può cercare di capire se altre compagnie per quella giornata coprono quanto Maier non è più in grado di coprire? Certo, qui bisogna fare un pochettino, è come la situazione del passeggero che non ha acquistato il biglietto, come se oggi la signora ha trovato un'offerta di acquisto di servizi di albergo eccetera, ha visto che sono buone, ha chiuso quel contratto, ha acquistato il soggiorno in quella località e adesso penso ad andarci, e allora si mette alla ricerca, purtroppo la situazione è questa, come se non avesse mai acquistato il biglietto. È perfetto. E poi eventualmente decide di rivalersi secondo tutte le procedure che lei ci ha indicato contro Maier, inviando intanto per la raccomandazione. Con il rischio che se ci dovesse essere fallimento non potrà mai tornare in possesso né del rimborso dei biglietti, del titolo di viaggio, né della competenza, né dell'eventuale risarcimento per il prezzo in più che ha pagato, perché può esserci anche l'ipotesi in cui c'è ulteriore danno, no? Perché io ho acquistato il biglietto con la Maier a X euro, o adesso se lo acquisto con un'altra compagnia, per quanto condizioni possono essere favorevoli, rischio di pagare X più Y, e quindi avrò un aggravio di costi anche questo, di cui non mi potrò rivalere se la compagnia dovesse andare in Maura. E poi vorrei proprio tornare lì adesso, avvocato, magari questo tema lo spendiamo nell'ultima parte di Salvadanaio, sul famoso Fondo Nazionale di Garanzia per il Consumatore di Pacchetto Turistico, che dovrebbe proprio risarcire chi è stato il malcapitato protagonista di vicende come quelle di cui stiamo parlando stamattina, Maier, Todomondo. Vorrei sentire invece l'ascoltatrice Carmen da Torino, che sta partendo per Londra. Buongiorno Carmen. Pronto, buongiorno. Sì. Vacanza di studio, cosa va a fare di bello? È abbastanza di piacere, comunque sempre uno studio, perché ormai io ho 69 anni dal 67-71 io ho cominciato ad andare in Inghilterra, poi sono andata per studio, poi sono tornata. Insomma. Brava Carmen. Il discorso è questo, che chiaro che avevo sentito di questa malattia eccetera, però anche la mia amica, ma il mio medico mi ha detto di non preoccuparmi, perché quelli che stiamo più a rischio sono i bambini e i giovani. Noi abbiamo più di 65 anni, di cosa ci dobbiamo preoccupare? Ho chiesto al medico che cosa mi consigliava, se devo partire con delle medicine, mi ha detto no, nessuna medicina, al limite se capiterà comprerà qualcosa là sul posto che sarà fatta apposta per quella malattia lì. Quindi io non mi sono preoccupata più di tanto, anche perché diciamo nelle settimane scorse parlavano di questa cosa, ma non in modo allarmistico, appunto, insomma. Quindi dice, ma no, è come un'influenza normale, non è neanche più grave, ecco. E quindi io sono andata avanti nel tempo, sì, io tanto sono un'affezionata di Radio 24, se lo sento. Ascolta anche a Londra. Giorno, ecco. Però non mi sono preoccupata, nonostante sia una persona che prende le proprie decisioni. Certo. Che valuta. No, ma Carmen, ma infatti non era neanche nostra intenzione fare allarme intorno a questa situazione, però dei numeri dell'influenza leggiamo tutti i giorni sui giornali, allora magari così abbiamo voluto fare un piccolo vademecum sul corretto comportamento di chi, raggiungendo delle località che sono un po' più a rischio di contagio rispetto ad altre, vuole andare via iperprotetto e iperassicurato. Per cui cerchiamo di capire la dottoressa Giglio di Europa Assistance cosa potrebbe consigliare a Carmen, che dice insomma io anagraficamente, da quello che mi ha detto il medico, non sono a rischio contagio. Può andare via sicura secondo lei? Giglio, ovviamente lei non è un medico. No, ecco. Però diciamo che quello che può fare la signora, che possono fare tutti, è di coprirsi con una polizza assicurativa che può rimborsare le spese mediche o fino ad arrivare all'assistenza di cui parlavamo prima, ma può anche fare un rimborso delle spese mediche che la signora potrebbe sostenere, le auguro assolutamente di no, in vacanza, ma questo in Inghilterra così come in qualsiasi altro paese. Giglio, quanto ci potrebbe costare una protezione di questo tipo rispetto ad un'influenza di cui abbiamo parlato tanto e che comunque ha questa modalità di propagazione così, così intensa? La signora va in vacanza a Londra per un periodo di 15 giorni, mi è parso di capire, sì. Corretto? Quindi dai 41 euro fino ad arrivare ai 130 euro, 140 euro, quindi anche con 40 euro la signora può fare una copertura di una polizza assicurativa che gli garantisca sia l'assistenza sanitaria che il rimborso delle spese mediche e anche la copertura bagaglio nel caso di questa polizza. Sì, infatti, sì, perché noi adesso ci stiamo proprio focalizzando solo ed esclusivamente sulla suina, in realtà poi ecco, la copertura assicurativa può servire anche per tante altre disavventure che ci possono capitare in viaggio. Ci stiamo un po' focalizzando con lei sugli aspetti legati alla salute, che sono molto importanti alla luce dell'influenza appunto suina, ma in realtà poi ecco, le coperture ci possono essere utili anche per tante altre problematiche che ci si possono presentare durante i viaggi. Quindi questa, come dire, è la spesa che Carmen potrebbe sostenere qualora fosse così un po' più sensibilizzata la copertura assicurativa, quindi sentirsi tranquilla a Londra. E io sentirei adesso allora Paolo da Roma, che aspetta da un po', che non ha avuto problemi né con Netodomondo né con Maier, però insomma ha un campanello d'allarme su un'altra azienda. Sì, ci muoviamo un po' prima, spero. Vabbè, quando parte? Speriamo che vada tutto bene, prima di tutto. Ma sì, Paolo, non si preoccupi. Allora, ci sono un po' di voci sul ventaglio, sui viaggi del ventaglio, che non la danno con una ottima situazione finanziaria. Io ho prenotato per fine agosto, anche l'agenzia mi ha un po' così dato qualche campanello d'allarme. Ah, l'ho messo le mani avanti. Sì, dicendo guarda, soprattutto all'estero, vabbè, io vado in Italia, effettivamente ho avuto una riprova, ho mia suocera che è andata sempre col ventaglio, è andata in Grecia e infatti poco prima di partire è stata, come si dice appunto, come stai dicendo, riprotetta su un'altra struttura, perché quella ufficiale del ventaglio non so che problemi avesse, lì per lì è stato detto un problema organizzativo, è stata riprotetta su un'altra struttura sempre dello stesso gruppo, però non era esattamente quello per cui si era fatta la prenotazione. Allora, e allora dico, cosa possiamo fare nel caso, ecco, muovendoci un po' prima, visto che siamo in quattro a partire, insomma, bambini. No Paolo, quello che adesso mi stuzzica di lei è che se l'agenzia alla quale si è rivolto le ha già detto, ma io non mi fiderei molto, adesso io non credo che sia una situazione così problematica, so che ci sono dei problemi finanziari di questa società che sta avendo anche un cambio proprietario, però a parte questo, se un campanello d'allarme gli è stato già fatto suonare, ma perché non ha cambiato? Che la discriminante c'è, nel senso che la situazione all'estero è differente rispetto all'Italia, perché da quello che poi ho un po' preso informazioni, dal punto di vista immobiliare le strutture in Italia sono di proprietà del ventaglio, differenza di ciò che c'è sull'estero, dove le strutture non sono o in affitto, comunque date in, ora non so il termine giusto, comunque non sono di proprietà, per cui la gestione deve essere demandata. Allora, sì. Ok, quindi in Italia c'è una maggiore affidabilità in questo senso. E intanto, oltre a chiamarci all'800 24 0024 e a scriverci al 349 238 6666, c'è anche chi ci scrive all'indirizzo di Salvadanaio, come Giuseppe, un affezionato ascoltatore di Sesto San Giovanni, che ci dice in merito alla vicenda Todomondo. L'anno scorso ho acquistato un pacchetto vacanza in agosto per le Tenerife, devo dire che era filato tutto liscio, il servizio era stato nel complesso buono, anzi avevo anche ricevuto un buono sconto di 150 euro da rispendere evidentemente per un'altra vacanza, in quanto la partenza mi era stata spostata di un giorno. Quest'anno pensavo di valutare un pacchetto vacanza sempre con loro, invece ecco la sorpresa. Beh, è chiaro Giuseppe che avendo avuto la piena operatività fino a poco tempo fa è probabile che insomma gran parte dei viaggi organizzati attraverso questo tour operator siano andati bene. Devo dire che però io ho trovato dei blog con pieni di racconti di disservizi della tipologia più disparata. Poi magari se riesco ne leggo anche qualcuno che insomma ha raggiunto i posti prescelti e non è mai stato in grado di tornare indietro se non con avventure rocambolesche, turisti ostaggio in Grecia, in Giamaica e tante altre cose ancora. Avvocato Calì, non è questa credo la situazione di viaggi del ventaglio però. No, diciamo, noi non possiamo conoscere le situazioni finanziarie interne della società. Non li abbiamo neanche con noi adesso, non vorrei neanche che ci ascoltassero e ci denunciassero anche per mettere in giro delle voci che non corrispondono alla realtà. Diciamo, allo Stato ci possono essere segnalazioni di servizi, come possono essere segnalazioni di servizi di tutti i tour operator, diciamo. Quindi da questo punto di vista ci sono gli strumenti previsti al codice del consumo di presentare il reclamo entro i 10 giorni da rientro, eccetera. Quindi adesso diciamo non abbiamo altri segnali. Mi ha un po' incuriosito però l'atteggiamento dell'agenzia a cui Paolo si è rivolto, che gli ha detto sì, però per l'estero non ti fidare tanto. E quindi ritorna a quello che dicevamo prima all'inizio, cioè si possono individuare anche delle responsabilità di chi vende il pacchetto turistico, perché hai il dovere di informare il consumatore. In questo caso il consumatore è stato informato, quindi purtroppo per lui se dovesse accadere era stato chiaramente informato, poi a prescindere dalla valutazione, ecco. E in ogni caso c'è un obbligo, a mio avviso, come dicevo prima, di chi vende il pacchetto turistico di dare delle informazioni, visto che ne ha conoscenza essendo un operatore del settore. Per quanto riguarda prego avvocato. Per quanto riguarda la faccenda del fondo di garanzia e quelli. Esatto, bravo. Va, allora già che ci siamo, risolviamola questa cosa, che è istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. Sì, diciamo che ne abbiamo parlato già in una precedente trasmissione. Ah bene, credo me l'hai, sì, mi stai dicendo. No, abbiamo soltanto accennato di Strisce perché l'argomento della trasmissione. Non me lo ricordavo, forse sì, sì, infatti. Diciamo la questione è in questi termini, perché tra l'altro il codice del consumo, nel prevedere questo fondo di garanzia, parla non solo di fallimento del tour operator, ma parla anche di insolvenza dell'organizzatore, del venditore o dell'organizzatore. Quindi è chiaro che ci potremmo trovare anche in una situazione di minore gravità rispetto al fallimento, che quella di una insolvenza può essere anche temporanea, rispetto alla quale si può far carico. Ecco, questa possibilità viene data appunto al consumatore per ottenere il rimborso del prezzo versato. Quindi se dovesse ipotizzarsi c'è l'insolvenza comunque, ci potrà essere un domani il fallimento, in ogni caso c'è l'insolvenza del tour operator, è chiaro che il passeggero, il consumatore ha diritto ad avere rimborsato, visto che non li potrà mai recuperare attraverso una richiesta al tour operator, li potrà recuperare queste somme tramite un'istanza al fondo di garanzia. È chiaro, attenzione, che questo fondo di garanzia, e allora ne abbiamo parlato in questo senso perché è il problema del trasporto aereo, potrebbe anche garantire un rientro immediato di quelli che sono i passeggeri all'estero, cioè attraverso questo fondo di garanzia viene finanziato anche la possibilità di fare rientrare immediatamente che a causa dell'insolvenza o dell'inadempimento del tour operator restano all'estero e quindi non hanno come fare per tornare. Quindi è una cosa abbastanza, ci sono come tutte le pastoie burocratiche, anche questa deve scontare una procedura, sì, però, infatti, è chiaro che è una cosa che noi consigliamo di fare, perché il fondo di garanzia, appunto, come dice la stessa espressione, è l'unico che dà la possibilità al consumatore di recuperare quantomeno i soldi che aveva speso per la propria. Infatti, tra l'altro, adesso ho anche un po' di documentazione sotto gli occhi che mi spiega come presentare la domanda per chiedere i rimborsi a questo fondo. Ho visto che è stato istituito addirittura nel 1999, e quindi, avvocato Cadì, è funzionato in genere rimborsa qualora si faccia richiesta a questo fondo? Avete testimonianze in questo senso? Sì. Diciamo che è una cosa, chiamiamola ancora una fase di avvio, ecco. Ah beh, un avvio che sta durando 10 anni, un rodaggio costante. L'applicazione concreta è ancora in una fase iniziale, però ci sono state delle ipotesi, e però è anche una previsione che è stata ripresa, una previsione normativa che è stata ripresa dal codice del consumo, cioè il fondo di garanzia è espressamente previsto dal codice del consumo all'interno di quelli che sono gli articoli che riguardano i servizi turistici, quindi anche questa previsione assume particolare. No, perché io stamattina volevo così un po' incentivare qualche ascoltatore magari a scrivere, a fare la domanda di rimborso dei prezzi versati per viaggi che non si sono mai realizzati, ma qua se lei mi dice che dal 99 ancora non hanno rimborsato. Tenga conto che c'è stata una modifica del 2007, quindi, è davvero partito adesso. Ecco, quello che così come oggi la disciplina del fondo di garanzia possiamo ritenerla, per come è stata modificata con un decreto legislativo del 2007, non mi ricordo fine anno del 2007, certo. Quindi anche relativamente tra virgolette recente. Allora, per i viaggi annullati, per tutta una serie di situazioni nelle quali ci possiamo trovare perché ci ammaliamo all'improvviso, anche perché il tour operator fallisce, vorrei capire se abbiamo le coperture assicurative indipendenti da quelle che ci fanno fare quando acquistiamo un pacchetto viaggio. Adesso Chiara Giglio di Europa Assistanza, vorrei chiarire con lei anche questo punto. Ci metto però insieme la domanda di Eleonora da Savona, che saluta. Eleonora, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dove va di bello? In Portogallo. Bella. Sì. E io ho organizzato il viaggio da sola, su internet, e ascoltando la vostra trasmissione effettivamente mi sono resa conto che se mi succede qualsiasi cosa... Speriamo di no, Eleonora, intanto. Speriamo di prima no. Cosa, ecco. Facciamo le dita. Però mi chiedevo se ci fosse qualche formula essenziale che insomma di copertura assicurativa, come dire, di base per potersi tutelare da qualcosa, da qualsiasi cosa, problemi diciamo legati alla salute, una piccola disavventura di questo tipo, un piccolo infortunio o la perdita del bagaglio, banalmente. Leonora, speriamo di non tirarcele addosso, perché devo dire che anch'io nell'organizzare la mia vacanza questi aspetti, Leonora, sarà anche per scaramanzia, ma li prendo in considerazione ben poco. Devo fare questa confessione pubblica a tutto il mondo da Salva Danaio, perché come sempre chi parla parla, predica bene ma poi razzola molto male, Leonora. Chiara Giglio, quindi tirata d'orecchie per me e per Eleonora. Sì, allora la copertura che si può fare è quella che dicevamo prima, quindi una copertura base che comprende l'assistenza sanitaria in viaggio, rimborso delle spese mediche e il bagaglio. Questo è il pacchetto base, diciamo l'essenziale per il viaggio, al quale poi possono essere aggiunte altre coperture a seconda di quelle che sono poi il tipo di viaggio che viene fatto, con chi si va in viaggio, perché per esempio nel caso di viaggio con i bambini spesso i nostri clienti ci chiedono coperture RC, oppure nel caso di viaggi dove uno può fare anche, non so, degli sport pericolosi, certo, abbiamo delle polizze infortuni. Quindi abbiamo viaggio, diciamo, degli standard, però è sempre bene che la compagnia conosca la composizione del nucleo familiare, problemi magari di salute già esistenti che non possono sorgere nel momento in cui ci troviamo nella località di vacanza, no? Perché poi la compagnia magari è un po' più severa. Ma allora, sulle malattie preesistenti le compagnie tendenzialmente sono tutte un po' severe, nel senso che quelle che coprono sono le malattie improvvise, quindi tutto quello che accade improvvisamente al cliente, quindi che non è riconducibile dalle malattie croniche, a meno che non siano malattie croniche avvenute in passato e che non richiedono cure, ecco, al momento, quindi in quel caso sì, se è un... è successo qualcosa in passato, ma il cliente non ha più avuto problemi, allora in questo caso è comunque coperto. Quindi diciamo che poi il viaggio, in base al viaggio che una persona fa, poi può essere costruita la polizza su misura. Quello che è importante capire è che si può variare la polizza in base alla durata, con massimali, in base all'estensione, appunto aggiungendo delle integrazioni. Quindi si può costruire molto in base a attorno al cliente. Quindi ecco, insomma, Leonora, magari prima di partire si può fare una chiacchierata con un paio di compagnie, le scegli, si fa fare un paio di preventivi, magari così ipotizza adesso, sperando che non capiti niente, magari anche per una località che non è poi lontanissima, quello che può essere il problema nel quale si può imbattere e capire qual è la copertura che fa al caso suo. Tra l'altro, dottoressa Giglio, Europa Assistanza, allora prima abbiamo sentito l'ascoltatore che ci spiegava che si avvale attraverso un'agenzia viaggi, ha scelto una località italiana con un grande operatore turistico nazionale, lui però dice: sento che non naviga in acque buonissime. Secondo lei una copertura assicurativa contro un'eventualità che il viaggio con questo tour operator, così come con un altro, salti per problemi del tour operator, è possibile farla? Allora, indipendente dal... Sul mercato mi risulta che non ci sono coperture che coprano i fallimenti di compagnie aeree o di tour operator, nel senso che spesso sono indicate nelle esclusioni, o comunque quella che è la polizza annullamento, che potrebbe fare il caso, potrebbe essere quella citata, comunque copre tutto quello che accade direttamente al cliente, quindi una malattia, licenziamento, tutto quello che accade direttamente alla persona e che è documentabile, quindi persona fa, oppure familiari nell'ambito della famiglia. Quindi paradossalmente non è che una compagnia ci copre, per esempio, avendo sentito parlare di Todo Mondo che non se la passava qualche mese fa molto bene, ma io ho voluto lo stesso organizzare un viaggio con questa società, vado in una compagnia e chiedo: guardate, siccome ho scelto questo tour operator che non è molto affidabile, mi voglio comunque coprire dal punto di vista assicurativo, è molto difficile che troviamo una compagnia che ci fa una copertura del genere. No, non è al momento sul mercato non esistono, impossibile, perché come diceva l'avvocato, poi queste sono responsabilità in carico al tour operator o alla compagnia aerea, perché sono loro che si devono prendere carico del cliente annullando un viaggio oppure come uno dei famosi villaggi fantasmi, uno arriva, non c'è niente, ecco, è tutta responsabilità del tour operator. Quello che la compagnia fa copre per quelle casistiche che accadono improvvisamente all'assicurato, quindi la malattia, banalmente chi ha famiglia, bambini piccoli, può capire. La malattia è l'ultimo minuto del bambino, per cui salta il viaggio, ecco, certo, in quel caso è coperto. Infatti. Allora, Chiara Giglio, io devo salutarla, Europa Assistanza, perché Salva Danaio sta terminando. C'era anche un'altra domanda di un ascoltatore di Lodi che ha prenotato una vacanza con Todo Mondo, gli hanno partenza prevista 2 agosto, rilasciato un documento il 17 luglio proponendogli il rimborso o un'altra vacanza, è ancora in attesa di risposta, entro il 24 luglio, ad oggi non ha ancora saputo niente. Avvocato Calì, in 10 secondi, io credo che Enrico non saprà a questo punto più niente. Marco, conviene, se gli danno i soldi, di andarsi a prendere subito il rimborso, infatti è l'unica possibilità che hai in questo tra l'altro a verificare Lodi, magari a Gallarate in provincia di Varese, le riesce ad andarci agevolmente. Qua in Lombardia ieri tra l'altro la società era presidiata da un sit-in di molti turisti infuriati, e capire se almeno potrà recuperare qualcosa. Enrico, non siamo riusciti a risponderle molto bene, magari ci scriva e valuteremo un po' più nel dettaglio il suo caso. Grazie anche all'avvocato Calì di Confconsumatori. Salvadanaio torna domani, vi auguro una buona giornata.